A volte quanto temo aprire gli occhi mentre la sveglia compie i suoi rintocchi. Sullo stomaco pesanti blocchi, ma non mi bloccano, rimbocco le mie maniche. Poi vado il prossimo, purtroppo se guardo avanti vedo sogni spenti. Provo a riaccenderli o ne invento 20. Non c'è spazio per lamenti che non cambieranno niente. Se vuoi cambiare le cose devi farlo attivamente. Non ha momenti ma c'è ancora gente, con gli occhi vivi io la vedo. La rivoluzione in petto e la paura di quel credo. Io proseguo, so che la strada è lunga, io la inseguo. Con gli occhi bene aperti, con lo sguardo tutto seguo. Sotto i piedi il mondo, su di me le stelle. Dentro al cuore l'universo e tante cose belle. Con i piedi scorticati, cicatrici sulla pelle. Pronta a lottare col mondo a costo di restare inerme. Lotte quotidiane, non ci arrendiamo, andiamo avanti. Questo è il nostro pane, lasciateci sognare. Mentre ingoiate pare, mentre piangete sale. Noi qua aspettiamo il sole senza protezione, yeah. Lotte quotidiane, non ci arrendiamo, andiamo avanti. Questo è il nostro pane, lasciateci sognare. Mentre ingoiate pare, mentre piangete sale. Noi qua aspettiamo il sole senza protezione, yeah. Lascio perlerare sul tragitto, stringo il micro, esprimo ciò che vivo, non fingo. Non sono il tipico MC finto che fa il figo copiando lo stilo del suo rapper preferito, preferisco dire il mio. Le mie idee le blindo, grindo kush come un attivo. Per me è un rito, la giro, la presso con il dito. Aspiro, sguardo vitreo, qui se non lecchi il culo come rapper sei finito. Amico, io ci ho provato a fare il bravo, ma la pazienza è finita, quindi le mani me le lavo. Mi leggo al cappio, tanto nel gioco non valgo. Se non sono amico dell'amico, non sento, non vedo, non canto. Parlo per esperienza, la merda è sempre la stessa. Vuoi organizzare una festa, devi abbassare la testa con amarezza. Non piena consapevolezza, per infami come voi non provo nulla indifferenza. Lotte quotidiane, non ci arrendiamo, andiamo avanti. Questo è il nostro pane, lasciateci sognare. Mentre ingoiate pare, mentre piangete sale. Noi qua aspettiamo il sole senza protezione, yeah. Lotte quotidiane, non ci arrendiamo, andiamo avanti. Questo è il nostro pane, lasciateci sognare. Mentre ingoiate pare, mentre piangete sale. Noi qua aspettiamo il sole senza protezione, yeah.